Focus Economia. Minuti, buon pomeriggio gentili ascoltatori, ben ritrovati a questa puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. Oggi in studio Alessio Maurizi, ma in redazione come sempre Mauro Del Corno, Barbara Bianchi. Allora, già che ci siamo, in regia anche Valeria Bernardi, vi accompagneremo per un'ora e mezzo con le notizie economico-finanziarie della giornata e anche con qualche approfondimento come ogni giorno. Le dichiarazioni di Tremonti fanno sicuramente discutere, ne parleremo. Il ministro dell'economia che ha parlato di cialtroneria nell'uso dei fondi europei, soprattutto nel mezzogiorno, e ha dato anche dati significativi dei fondi non spesi da parte delle regioni, soprattutto al mezzogiorno, fondi che sarebbero invece a disposizione. Come non parlare oggi anche del dato sulla disoccupazione. Disoccupazione che sale all'8,7% a maggio, un piccolo incremento rispetto ad aprile, ma insomma a preoccupare sono soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni. Qui la percentuale dei disoccupati è addirittura di quasi il 30%. E questo sarà un altro approfondimento, il primo che faremo quest'oggi. Parleremo anche di IRAP e IRPEF in quattro regioni italiane, perché da oggi è ufficiale, già negli acconti del prossimo autunno si pagherà questo incremento dell'IRAP in Lazio, Calabria, Campania e Molise. Lo sapete, sono soldi che le regioni necessitano per ripianare i deficit sanitari. E poi parleremo un po' anche di saldi, perché partono proprio in queste ore in Piemonte, domani anche Roma e Milano. Questi sono un po' i temi della giornata. Allora, come detto, 349-238-6666 per i vostri sms. Cominciamo allora con le notizie economico-finanziarie della giornata. E cominciamo con il quadro macroeconomico e con alcune indicazioni che sono senz'altro positive per i paesi da cui provengono. Per esempio in Cina viene rivista al rialzo la crescita del 2009 dall'8,7%, quindi il dato acquisito è un più 9,1%. Inutile commentare cifre che a noi sembrano astronomiche di crescita rispetto, ripeto, in Cina più 9,1% l'anno scorso. Vabbè, questa è una storia che già sappiamo. E poi invece notizie forse inaspettatamente e moderatamente positive vengono dagli Stati Uniti. Era molto atteso il dato sul tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, molto atteso anche perché sono quei dati che poi fanno volare le borse. È stata una giornata, e anche questo sarà un approfondimento oggi, di borsa. È stata una settimana di borse sull'otto volante. Oggi la situazione è decisamente più tranquilla, ma dicevamo, il dato della disoccupazione americana che a sorpresa è sceso al 9,5% a giugno dal 9,7% di maggio. Dunque l'economia americana ha perso, sì, posti di lavoro, 125.000, ma meno del previsto. La performance deludente è quella delle imprese del settore privato, con 83.000 assunzioni. Meno di quelle previste, erano 110.000 le assunzioni previste nel settore privato. Segni che potrebbero in qualche modo indicare la necessità di maggiori investimenti pubblici, per esempio per trainare la ripresa, la teoria di alcuni, insomma, ma insomma la lasciamo questa col punto interrogativo. E poi i commenti su questo dato in America positivi. Il presidente americano Obama ha ricordato come sia il sesto mese consecutivo di crescita dell'occupazione nel suo paese, e quindi qua la ripresa è decisamente in atto. Poi Obama ha detto che l'economia americana si muove nella giusta direzione, ma attenzione perché continua a dover fronteggiare venti contrari. Qualcuno si intravede già in Gran Bretagna, dove la Banca d'Inghilterra ha invece lanciato un segnale poco positivo. Ha detto: si prevede una nuova stretta sulla capacità degli istituti bancari britannici di concedere prestiti e mutui, una difficoltà che potrebbe naturalmente impattare negativamente sull'attività economica del paese. Una di quelle dichiarazioni che in altri momenti avrebbero magari scatenato reazioni, invece adesso ci siamo più abituati, ma insomma tant'è. In Spagna invece Moody's a commentare la situazione dei fondamentali del paese. Fondamentali creditizi della Spagna continuano ad essere molto forti, dice Moody's, agenzia di rating, anche se la solidità economica è più debole rispetto ad altri paesi con rating AAA. Ma insomma, non ci addentriamo in questo, notizie, come dire, interlocutorie forse da Moody's per quanto riguarda la Spagna. E veniamo all'Italia. Dato Istat positivo, questo sul rapporto tra deficit e PIL, che nel primo trimestre di quest'anno naturalmente si è ridotto dello 0,5%, attestandosi all'8,7%. Ripeto, rapporto deficit-PIL più 8,7%, anche se c'è stata una leggera diminuzione della notizia che è resa nota dall'Agenzia delle Entrate sul fatto che già nel conto di novembre le imprese di Lazio, Calabria, Campania e Molise dovranno fare i conti con l'aumento dello 0,15% della soglia diciamo della tassa, dell'IRAP, insomma, notizie non positive. Faremo i conti più avanti con un collega del Sole 24 Ore, di questo dicevamo abbiamo già parlato. E allora veniamo alle dichiarazioni del ministro Tremonti. Sembra Marx, ma invece è Tremonti. Sentite qua, dice: per effetto della globalizzazione, ha parlato Giulio Tremonti a margine della, anzi alla platea della Coldiretti, che ha fatto un po' il punto. Tremonti ha detto: per effetto della globalizzazione il mondo vive l'incontro o lo scontro tra forze opposte tra di loro, quelle del lavoro contro la finanza e quelle dell'economia fisica contro quelle di carta. Sono dichiarazioni che già altre volte Tremonti ci ha abituato ad analizzare l'economia a fondo e anche con pennellate di questo tipo, ma insomma, io ho detto scherzando, sembra Marx ma è Tremonti, ma insomma davvero ci sono annotazioni l'economia di finanza contro quella reale che in altri momenti forse non ci saremmo aspettati di sentir dire da un ministro dell'economia o dallo stesso Tremonti. Dicevamo, le dichiarazioni forti di Tremonti sulla cialtroneria con cui sono spesi i fondi europei al mezzogiorno. Anche qua si tratta di una provocazione, ma forse non del tutto. Tremonti ha ricordato come nel programma di fondi comunitari degli ultimi 5 anni, pensate, si prevedeva di spendere 44 miliardi di euro, ne sono stati spesi solo 3,6 miliardi, meno del 10%. Io francamente non so se il dato si riferisce solo all'Italia o all'Europa, adesso magari cercheremo di capirlo, ma intanto sentiamo un primo intervento in audio per oggi, e questo è Tremonti. Ieri ho incontrato il commissario europeo per i fondi regionali. Abbiamo tutti evidenza di uno scandalo pauroso prodotto dalle regioni meridionali. Lo stanziamento sul programma comunitario 2007-2013 è pari a 44 miliardi. Questi signori ne hanno spesi solo 3,6, solo un dodicesimo. E mentre cresceva la protesta contro i tagli subiti, aumentava l'accumulazione dei capitali non usati, e questa è una cosa di una gravità inaccettabile. Allora la colpa non è dell'Europa, non è dei governi nazionali, né di destra né di sinistra, è la colpa della cialtroneria che prende i soldi e non li spende. E questo dunque Tremonti. C'è chi ci chiede al 349-238-6666 i dati di borsa, per favore, giusto? Non abbiamo dato lo stato dell'arte sulle borse in questo momento. Allora, a Wall Street il Nasdaq cede lo 0,2%, il Dow Jones lo 0,33%, il FTSE MIB guadagna l'1,05%, questo per quanto riguarda Piazza Affari. Le borse europee sono moderatamente positive, ma ne parliamo tra un po' più avanti con i colleghi di Radio Core. Adesso per quanto riguarda le notizie di oggi, c'è l'ennesimo grido d'allarme che riguarda la manovra economica. Questa volta viene dal presidente di Federparchi, Gianpiero Sammuri, che oggi nel corso di una conferenza stampa al Senato ha ricordato come la manovra, ancora all'esame del Parlamento, all'articolo 7 prevede un taglio del 50% delle risorse ai parchi nazionali. E anche qua viene da fare un po' il discorso che abbiamo fatto in passato anche per il settore dello spettacolo e della cultura: se ci sono degli sprechi o anche di altri ministeri, sono sicuramente da perseguire. Quello che non si può, secondo me, dire è si spendono tot soldi per i parchi, perché sembrano soldi buttati via. In realtà sappiamo benissimo che poi sono tutte risorse per un paese come l'Italia. Dunque vediamo quali sono gli sprechi, vediamo di tagliarli. Poi insomma, questo è il grido d'allarme: il 50% dei fondi tagliati, ma insomma uno sforzo in questa, a questo giro lo stanno facendo e lo dovranno fare tutti. Questa è dunque la cronaca della manovra per quanto riguarda oggi. C'è da dire anche che il governo ha annunciato il marcia indietro sullo stop ai 40 anni di contributi. Stiamo parlando adesso di pensioni, anche se la fonte è sempre la stessa, cioè la manovra economica. È stato lo stesso relatore di maggioranza Azzolini del PDL a presentare in commissione bilancio al Senato un emendamento che corregge la proposta che ieri aveva messo sull'allarme un po' tutti, insomma. Sentiamo il ministro Sacconi, il ministro del welfare, che commenta questa notizia. È tutto risolto, non c'è problema. È già risolto. Noi parliamo solo dei 40 anni di contributi, solo di questo segmento piccolo, purtroppo. Segmento piccolo di quelli che nel 2016 avranno 40 anni di contributi. Quello è già risolto. È stato pulito il testo. Basta, è chiuso, risolto. Mi dispiace. La negatività è stata risolta. Succede. E vogliamo parlare un po' di occupazione, come detto, su questo dato della disoccupazione in crescita, anche se crescita modesta, più 0,2% a maggio. A preoccupare sono soprattutto il dato sui giovani, tra 15 e 24 anni che sono in una situazione di disoccupazione, sono quasi il 30% in Italia. Prima però chiudiamo la panoramica, perché quando parliamo di occupazione di questi tempi non possiamo non parlare di Pomigliano, e del futuro ancora, se vogliamo, un po' appeso a un filo, staremo a vedere. Questi sono gli auspici positivi del ministro Sacconi che abbiamo sentito appena parlare di pensioni, parlare invece della possibilità di produrre la Panda a Pomigliano come vorrebbe la Fiat nell'accordo firmato Fiom esclusa. Sentiamo Sacconi. Ma pensi che forse ce la facciamo? Mi dispiace per i tanti che tirano alla sfiga, e invece forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo proprio ad avere la Panda a Pomigliano. Chissà quante bocche storte, soprattutto nell'informazione, se ce la facciamo davvero. Io penso a tutti quelli che gufano in questo periodo sulla Fiat a Pomigliano. Se ce la facciamo davvero, ma davvero una soddisfazione in più pensare a quanti ci restano male. Io non so con chi ce l'ha Sacconi i gufi, noi ce l'abbiamo anche il gufo, gli ascoltatori di Radio 24, di Focus Economia lo conoscono, usato in altre occasioni quando si parlava di crisi e di chi gufava sulla crisi. Ha citato anche l'informazione, Sacconi, l'accordo è importante, produrre in Italia anziché all'estero sicuramente è un fatto positivo per Pomigliano per quanto ci riguarda. Salutiamo Tito Boeri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Professore di economia del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Abbiamo annunciato il tema, Boeri, poi magari tocchiamo anche la questione, se vogliamo, a 360 gradi anche di Pomigliano, anche se non ci sono notizie oggi. Le notizie invece vengono dal fronte dell'occupazione, abbiamo detto un modesto rialzo, più 8,7% a maggio, quindi un incremento dello 0,2% se non sbaglio, e i numeri sono questi: 38.000 lavori che si sono persi rispetto ad aprile, rispetto ad un anno fa invece sono 262.000 le unità sul mercato del lavoro che si sono perse. Però volevamo focalizzare l'attenzione su questo dato dei giovani: tra 15 e 24 anni in Italia sono ormai quasi il 30% i giovani disoccupati. A me interesserebbe capire, Boeri, anche dal punto di vista così sociologico, se vogliamo, si diceva così un tempo, ma insomma non lo so, chi sono questi giovani che non frequentano evidentemente più la scuola, perché altrimenti non sarebbero alla ricerca di un lavoro, e che un lavoro non lo trovano. Una sacca preoccupante, ne abbiamo già parlato altre volte, non è una novità, però insomma. Sì, è preoccupante perché praticamente vuol dire che il tasso di disoccupazione tra i giovani è raddoppiato rispetto ai livelli, quasi raddoppiato rispetto ai livelli pre-crisi, dove si era attorno al 18%, ormai viaggiamo sul 30%. Credo che questo denoti due cose. Primo, c'è una cosa che succede in tutte le recessioni. Normalmente le imprese, prima di cominciare a licenziare, congelano le assunzioni, quindi non ci sono più assunzioni. Quindi i giovani che escono dalla scuola e che cercano un lavoro si trovano alla porta sbarrata, e quindi sempre durante le recessioni la disoccupazione giovanile aumenta. Ma il fatto nuovo di questa recessione, che spiega un balzo così forte della disoccupazione giovanile, è che c'è stato anche licenziamento massiccio di giovani che avevano dei contratti temporanei, quindi non protetti dal regime di protezione dell'impiego, e che purtroppo non sono neanche protetti dai sussidi di disoccupazione, quindi sono persone che perdono il lavoro e con questo perdono qualsiasi reddito. E questo è un problema sociale anche più grave del solito, perché sono, quando si parla di disoccupati giovani si pensa spesso appunto di studenti che escono dalla scuola, che magari sono ancora in famiglia, ma qui stiamo parlando di giovani lavoratori, persone che avevano già iniziato a lavorare, magari si erano già costruiti una casa, si erano fatti una famiglia, avevano magari dei figli, e per loro invece quindi la situazione è molto grave, soprattutto perché non hanno protezione alcuna dallo Stato. Cioè il sistema dei sussidi di disoccupazione è un sistema che in qualche modo continua a deludere e a non coprire i giovani, e questo è davvero un problema molto, molto, molto serio. Una delle critiche che è stata fatta dall'opposizione, soprattutto al governo, per quanto riguarda la manovra, è quella di non avere, si dice, abbastanza per rilanciare l'economia e quindi anche l'occupazione. Non le chiedo se condivide questa critica, se vuole può anche rispondere, ma che cosa in più in generale invece ci si potrebbe aspettare da chi ha in mano le politiche economiche pubbliche, cioè il governo, in un momento del genere, e cosa è stato fatto per risolvere situazioni o diminuire l'impatto, la gravità di situazioni come questa della disoccupazione giovanile? Io credo che la cosa fondamentale da fare è quella di affrontare il nodo del dualismo del nostro mercato del lavoro. Cioè bisogna cambiare le regole d'ingresso nel nostro mercato. Attualmente i giovani entrano sempre dalla porta secondaria dei contratti temporanei e si trovano due volte discriminati quando lavorano, perché hanno posti molto più a rischio di essere soppressi, non rinnovati alla scadenza, al datore di lavoro non costa nulla di fatto licenziarli, e poi discriminati una volta che sono fuori dal mercato del lavoro perché, come dicevo, non hanno sussidi di disoccupazione. E basterebbe cambiare le regole d'ingresso, cioè cambiare le modalità con cui si assume, incentivando la assunzioni in contratti a tempo indeterminato, che però consentano al datore di lavoro di avere un periodo in cui può assaggiare le capacità del lavoratore, quindi una fase di inserimento in cui la protezione dal rischio di licenziamento si crea col tempo, ma in modo progressivo, insomma, senza forti discontinuità, in modo tale da non disincentivare, da scoraggiare il datore di lavoro da offrire un contratto a tempo indeterminato. Cioè dovrebbe costare di meno assumere a tempo indeterminato. E quindi dovrebbe porre, diciamo che dovrebbero crearsi delle tutele che crescono gradualmente nel tempo. Poniamo per esempio nei primi 3 anni uno acquisisce il diritto ad avere 5 mensilità in caso di licenziamento senza giusta causa ogni mese, quindi 5 giorni per ogni mese lavorato, insomma, quindi fino a totalizzare circa 6 mesi di indennità nel caso in cui venisse licenziato al termine del terzo anno. È un modo per dare protezione. Oggi non c'è alcuna protezione, le persone possono essere licenziate a costo zero per il datore di lavoro, e al tempo stesso però non scoraggiare il datore di lavoro dall'assumere con un contratto a tempo indeterminato. Ecco, un'altra domanda che io le vorrei fare, Boeri, è questa: che futuro possono avere, e parliamo di anni, questo 29%, 30%, speriamo in futuro sempre di meno, di giovani disoccupati che verosimilmente non hanno un grado di istruzione molto elevato, se no non sarebbero giovani disoccupati sotto i 24 anni. Oggi il ministro Tremonti ha lanciato questo grido d'allarme sui fondi europei, soprattutto al Mezzogiorno, non utilizzati, ha parlato di cialtroneria, ma insomma fondi che spesso servono proprio per la formazione. Mi viene da pensare che la formazione sia un punto fondamentale, perché altrimenti tra qualche anno questi, che non saranno più neanche giovani, quindi non avranno più neanche quel appeal per quanto riguarda il mercato del lavoro, rischiano di essere completamente fuori, o mi sbaglio? La preoccupazione disoccupazione è legittima, ecco, spesso quando si parla di disoccupazione giovanile si dice sono giovani, avranno tutto il tempo di rifarsi, in realtà diversi studi sociologici documentano che chi perde il lavoro all'inizio della propria carriera lavorativa tende ad avere degli effetti e dei danni permanenti sulla propria carriera lavorativa, sono persone che rischiano di perdere il lavoro ancora più in là nella propria vita, che di guadagnare di meno, di avere dei salari più bassi, e addirittura ci sono studi che documentano anche di danni persistenti sulla salute, cioè persone che si ammalano a seguito di questo trauma che hanno avuto inizialmente nella loro carriera lavorativa, quindi c'è un problema serio di cui bisogna discutere. Ciò che mi preoccupa di più è il fatto che i giovani oggi, anche quando entrano nel mercato del lavoro, anche quando trovano un lavoro, tendono a trovare un lavoro, come le dicevo appunto, a tempo determinato, e sono tutti, quindi con una scadenza, e sono tutti lavori che sono soggetti molto meno a formazione sul posto di lavoro, cioè il datore di lavoro, siccome sa che tanto il giovane se ne andrà prima o poi, non investe nella formazione del dipendente, lo stesso lavoratore probabilmente non ha forti incentivi a farlo perché si rende conto che quanto impara sul posto di lavoro, magari appunto dovendo cambiare spesso lo stesso, finirà per non servirgli in futuro. Quindi c'è un problema molto serio in cui si rischiano di perdere delle intere generazioni, questo è davvero il problema credo numero uno in questo momento, perché la formazione, il capitale umano si fa non soltanto a scuola, in università, ma moltissimo anche dentro l'azienda. A parte gli ascoltatori che un paio che dicono Boeri è fazioso, lei si sente fazioso? No, perché arrivano messaggi così. No, sappiamo che Boeri non lesina critica al governo, però sappiamo anche che quando era in carica il governo Prodi, se c'era qualcosa da dire mi sembra che lo dicesse. A parte questo, Boeri, l'ultima cosa che le chiederei è, sappiamo che la disoccupazione è un po' l'onda lunga della crisi, crisi che in Italia, insomma, il dibattito se sia alle nostre spalle o no è ancora aperto, ma tutto sommato sì, è abbastanza alle nostre spalle. Quando possiamo aspettarci che il mercato del lavoro torni invece a dare segnali un po' positivi? Si pensava proprio che i mesi estivi fossero quelli cruciali. Che indicazioni ha? Di faziosità io non so cosa dire, io questa proposta sulla riforma del mercato del lavoro la faccio da anni, l'ho fatta quando c'era il governo di centrosinistra e in modo molto pressante, lo faccio quando e la rilancio anche quando al governo c'è un governo di colore politico diverso, quindi non so se fare proposte, insistere perché vengano attuate, denunciare il rischio di una perdita di generazione, di una marginalità, ecco, dire cose di questo tipo significa essere fazioso, bene, allora lo sono. Così abbiamo risposto anche all'ascoltatore, benissimo. Sicuramente il mercato del lavoro tende a seguire con un certo ritardo la dinamica del prodotto interno lordo, ne veniamo da una diminuzione del prodotto interno lordo cumulativa di oltre il 7% dall'inizio della crisi, l'occupazione ormai, se noi contiamo oltre al calo dell'occupazione anche le persone in cassa integrazione a zero ore, è ormai calata attorno al 7%, quindi probabilmente siamo verso, abbiamo toccato quasi il punto di fondo della caduta dell'occupazione, cioè io mi auguro che dall'estate in poi noi vedremo finalmente dei segni positivi sull'occupazione. Ecco, a questo punto chiudiamo il cerchio della faziosità e faccio anche questa domanda, recuperiamo, non so se ha sentito proprio prima che la introducessimo le dichiarazioni di Sacconi su Pomigliano, il ministro del welfare, che dice contro tutti quelli che gufano contro, e mi risulta che tutto sommato a parte la FIOM non ci siano molti a tifare contro questo accordo, anche se poi sappiamo che l'esito del referendum non è stato un ampio plebiscito, ma insomma comunque maggioritariamente favorevole all'accordo. Crede che alla fine questo accordo si farà e lei come lo giudica un accordo che porterebbe, otterrebbe occupazione in Italia? Abbiamo appena parlato in un momento in cui l'occupazione cala. Io mi auguro assolutamente che la produzione della Panda venga in Italia, sarebbe davvero un fatto importante per quell'area del paese, insomma, e per quelle famiglie, non sono soltanto i 5.000 che lavorano a Pomigliano, ma anche i 10.000 dell'indotto, quindi spero proprio davvero che la cosa si faccia, d'altra parte non vedo perché la Fiat non dovrebbe farlo, essendo che il referendum ha comunque approvato l'accordo stesso. Sul contenuti dell'accordo, come ho anche scritto, credo che abbia due aspetti che sono anomali per un accordo, ma che sono tutti e due aspetti che possono in qualche modo essere rimediati. Il primo aspetto rimediabile è la questione della clausola di responsabilità. Qui è legato al fatto che il nostro sistema di relazioni industriali non prevede situazioni in cui diversi sindacati si dividono sui contenuti dell'accordo. Lì bisognerebbe rimediarlo con una legge sulle rappresentanze che se ne parla dai tempi di Nenni e non è mai stata approvata. Il secondo aspetto riguarda l'assenteismo. In quella parte, in quell'area ci sono tassi di assenteismo davvero anomali, che con dei picchi sospetti in occasione di partite di calcio, di elezioni, di altri eventi che insomma nulla hanno a che vedere con epidemie o quant'altro. Ecco, su questo bisogna intervenire. Noto che in Italia è stata abolita la franchigia sui primi giorni di assenza. Un tempo i lavoratori pagavano i primi 3 giorni di assenza per malattia e nonostante questo il tasso di assenteismo dei lavoratori dipendenti italiani è al di sotto di molti altri paesi dell'area euro. Quindi vuol dire che gli italiani, i lavoratori italiani sono responsabili, che c'è consapevolezza insomma del fatto che non bisogna abusare di questo strumento. Purtroppo a Pomigliano non sembra essere così, probabilmente per anche una minoranza organizzata, sindacati gialli che abusano di questo strumento. Ecco. Quindi capisco il fatto che si senta l'esigenza, che l'azienda senta l'esigenza di fare qualcosa a riguardo. La cosa migliore sarebbe sensibilizzare l'opinione pubblica e i lavoratori in cooperazione col sindacato e rendere questa norma non più necessaria, come non è necessaria nel resto del paese. Benissimo, grazie. Ringraziamo Tito Boeri, ricordo professore all'Università Bocconi di Economia del Lavoro, e nel ringraziarlo e nel salutarlo ricordo anche, visto che citava Nenni, per i più giovani, anni 50, 60 e forse fino agli anni 70, Nenni è scomparso, se non ricordo male, all'inizio degli anni 80, insomma è un dibattito questo che si protrae da un tantinello. Grazie ancora professor Boeri, ci fermiamo qua, 17.34, facciamo una pausa, poi torniamo e parliamo di borse. minuti, gentili ascoltatori, tra poco parliamo di borsa con il collega Andrea Fontana di Radio Corbo. Buon pomeriggio Andrea. Pomeriggio a voi. Beh, dico soltanto gli indici, così siamo a posto e così poi parliamo degli spunti di oggi a Piazza Affari. Wall Street, Dow Jones meno 0,9%, Nasdaq meno 0,8%. A Piazza Affari il FTSE MIB è in progresso dello 0,7% in chiusura e invece per quanto riguarda le borse europee vedo Parigi più 0,25, Francoforte meno 0,4 e poi poco altro, Londra più 0,68%. Quindi tutto sommato borse positive e dopo i dati della disoccupazione americana, come abbiamo già commentato, migliori delle attese. Chi si mette in luce oggi a Piazza Affari? Dunque, Tenaris sicuramente, Saipem, Andrea, rialzi notevoli, che succede? Sì, diciamo oggi una buona giornata di recupero dopo la giornata di ieri, in particolare trainata dal settore delle materie prime e dell'energia. Per quanto riguarda c'è stata anche una buona attenzione appunto sui settori, diciamo così, limitrofi a quello petrolifero, appunto Saipem e Tenaris appartengono, diciamo così, a questi settori di servizi e delle attrezzature per i settori petroliferi, diciamo hanno guadagnato bene, un po' per l'effetto dell'intero settore, un po' anche per una certa attenzione sul settore dell'acciaio, questo coinvolge in particolare Tenaris, che è stato oggetto di acquisti e attenzione un po' in tutta l'Europa. A conferma del buon andamento delle materie prime, anche Eni ha guadagnato l'1,4%, quindi confermando, diciamo così, un settore oggi particolarmente brillante. E invece per quanto riguarda il risparmio gestito, anche qui notizie tutto sommato positive. Azimut è uno dei migliori titoli a Piazza Affari, Mediolanum anche si distingue, è il terzo titolo, più 2,2%. Andrea, qua cosa c'è da raccontare oggi? Un interesse appunto sul settore risparmio gestito condiviso anche con altri paesi europei sui listini oggi. C'è da dire che Mediolanum negli ultimi giorni si è resa anche un po' protagonista di operazioni di acquisizione, cioè ha nel mirino la rete Banca Sara con cui è in trattativa. Può darsi che si arrivi alla chiusura di questa operazione, ma proprio ieri dai vertici di Mediolanum È emerso come ci sia un'attenzione ulteriore, oltre a questa operazione di Banca Sara, per altri operatori del settore, appunto, che hanno reti promotori finanziari e potrebbero potenziare ulteriormente la già vasta rete di Mediolanum, quindi una certa effervescenza sul settore, sull'industria del risparmio gestito, e Mediolanum in particolare, diciamo, protagonista, proprio perché attore protagonista impegnato in questa crescita. Andrea, allora riprendiamo il filo. Io ho letto un po' di quotazioni in chiusura quest'oggi, dicevamo quasi tutte positive. Abbiamo parlato del settore dell'oil, abbiamo parlato del risparmio gestito. Un ascoltatore ci chiedeva di Saipem, dici qualcosa invece per quanto riguarda Snam? Sono aumentate le tariffe e quindi... Sì, un paio di sedute molto positive, ieri più 2,1% per Snam, oggi più 1,9%, solitamente siamo abituati a vedere Snam tenere o comunque muoversi in positivo nelle giornate in cui le borse scricchiolano o comunque sono sotto pressione, perché è considerato chiaramente uno dei titoli più difensivi, più sicuri su cui puntare, ma l'aumento delle tariffe del 3,2%, delle tariffe del gas appunto stiamo parlando, a cui ieri si è aggiunta anche qualche buona raccomandazione da parte delle case di investimento, ha messo il motore, diciamo così, a Snam sia ieri che oggi. Il titolo ha chiuso a 3,4 euro, quindi molto, molto positivo. E qualche incertezza invece sul futuro di uno dei settori di investimento di Mediaset, cioè Premium. Questo fa pagare un pegno al titolo di Mediaset? Sì, una doppia seduta negativa per Mediaset, ieri particolarmente negativa, anche se pagava, diciamo così, la giornata no dei listini. Mediaset ha chiuso con una perdita di quasi 4% ieri, non ci si aspettava questo ribasso di oggi, invece meno 1,44%, secondo gli operatori, anche se dalla presentazione dei palinsesti d'autunno e quindi poi anche dalle osservazioni, dai giudizi, dalle stime sulla fine dell'anno, non sono emerse particolari novità o particolari novità che comunque abbiano sorpreso il mercato. È emersa però, segnalano gli operatori, un certo timore su quello che può essere il risultato di Mediaset Premium, cioè la parte pay TV del business di Mediaset, proprio perché il lancio di una nuova tariffa a prezzo particolarmente interessante, ma comunque nettamente inferiore a quelli precedenti, poi in particolare la scadenza di buona parte delle tessere premium attive a fine giugno, quindi la necessità di andare a recuperare quei clienti, ha un po' messo pressione al titolo, ha un po' messo pressione su questo business, anche se va detto che Pier Silvio Berlusconi due giorni fa ha confermato che la parte pay TV di Mediaset chiuderà l'anno con il pareggio operativo, quindi con il raggiungimento del break even. Vedremo se saranno veri i timori del mercato o se invece le rassicurazioni di Pier Silvio Berlusconi saranno confermate poi dai risultati. Scusate se torno sulla partita, perché nonostante ne abbiamo parlato, c'è un ascoltatore che ci dice: ma non avete detto il risultato, ha vinto l'Olanda, va bene, ha vinto l'Olanda con il risultato di 2-1, ma il senso era quello. Andrea Fontana, parliamo invece di banche, perché sulla possibilità o la necessità di eventuali aumenti di capitale, anche due giorni fa Draghi ha smentito per quanto riguarda l'Italia, oggi invece Financial Times torna su questo argomento per quanto riguarda proprio l'Italia con delle notizie, ci sono delle smentite, però i risultati sono diversi, perché Banca Popolare Milano smentisce e va bene, Monte Paschi Siena invece mette a segno un calo dell'1,3%, cosa ci racconti su questo fronte? Sì, certamente sembra che il mercato, diciamo, abbia creduto alla smentita da parte della Popolare di Milano e un po' meno alla smentita arrivata dal Monte dei Paschi. I fatti sono questi, appunto, come tu ricordavi, l'articolo del Financial Times mette in evidenza come ci siano alcune banche, una ventina in Europa, che saranno costrette a ricapitalizzarsi a seguito dei risultati degli stress test che dovrebbero essere resi noti a fine luglio, tra le banche che avrebbero bisogno di mezzi freschi, sempre secondo il quotidiano londinese, in Italia ci sarebbero in particolare Monte dei Paschi e Popolare di Milano. Sono arrivate le smentite di entrambe, che dicono noi non abbiamo necessità di aumenti di capitale, tuttavia il Monte dei Paschi ha perso l'1,3, la Popolare di Milano ha guadagnato lo 0,5. Va detto che l'attenzione sulla Popolare di Milano è anche maggiore per il fatto che proprio in questi giorni sta partendo, diciamo così, la gara per trovare il nuovo partner della banca assurance, dei prodotti banca assicurativi dell'istituto. Diciamo, questo ha dato certamente più attenzione alla Popolare di Milano, ma un fatto è che poi i movimenti seguiti alle smentite siano stati diversi. Non so se i tuoi potenti mezzi si spingono fino a Tesmec, matricola ieri, ci chiede un ascoltatore per sapere com'è andata, in 10 secondi però, se i tuoi potenti mezzi te lo consentono, se no sì. Tesmec oggi ha parzialmente rimbalzato dopo l'esordio giallo, diciamo così, di ieri, cioè era fortemente negativo. Oggi invece per il gruppo aveva perso circa il 20%, oggi ha guadagnato il 3,5%, venendo a 0,58. Grazie, ci fermiamo qua. Scusa Andrea, ma siamo già lunghi rispetto al giornale radio che incombe tra pochissimo, torniamo subito dopo. Minuti, ben ritrovati gentili ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri sms. Riprendiamo questa seconda parte di Focus Economia, ricorderemo brevemente alcune notizie principali di oggi e poi, come detto, un paio di approfondimenti. Parleremo di tasse in quattro regioni italiane, Lazio, Molise, Campania, Calabria, anzi cinque, Sicilia, e poi parleremo anche brevemente di saldi perché sono al via. Prima però ripercorriamo brevemente questa giornata economico-finanziaria. E allora riprendiamo dal dato atteso sulla disoccupazione negli Stati Uniti che a sorpresa si attesta al 9,5%, quando invece le attese erano per un dato maggiore, 9,7%. L'accoglienza è stata positiva anche sui mercati, che andavano già benino. In questo momento il Dow Jones cede lo 0,7% positiva, parliamo d'Europa, Il Nasdaq cede lo 0,49%, a Piazza Affari il FTSE MIB ha chiuso con un progresso dello 0,7%. All'eccezione di Francoforte, che chiude con un meno 0,4, Parigi è positiva più 0,2 e Londra guadagna lo 0,7% dei titoli, abbiamo già parlato bene, Saipem più 3,5, Tenaris più 2,3, Mediolanum chiude con un progresso di oltre 2 punti in percentuale, quasi come Snam Rete Gas, che chiude con un più 1,87%. In controtendenza Italcementi meno 1,6, Autogrill meno 1,7%. Ma proseguendo sul fronte delle notizie di giornata, ci sono le indicazioni interlocutorie che vengono dalla Banca d'Inghilterra, che prevede una nuova stretta sulla capacità delle banche di dare prestiti e mutui, ovviamente una difficoltà che potrebbe impattare anche sulla crescita economica del paese. Per quanto riguarda l'Italia, il dato di giornata, lo sentivate anche nel giornale radio, è sicuramente quello della disoccupazione, più 0,2% a maggio rispetto ad aprile, il tasso complessivamente parlando adesso su base annua è salito a più 8,7%, abbiamo parlato a lungo soprattutto della disoccupazione tra i giovani tra i 15 e i 24 anni che, ahimè, raggiunge quasi il 30%, più 29,7%. 2%. Sul fronte italiano, un'altra notizia di cui parleremo tra poco è la conferma da parte delle agenzie, l'Agenzia delle Entrate, sul fatto che già nell'acconto di novembre le imprese dovranno per le loro attività produttive, ahimè, pagare un'aliquota IRAP maggiorata. Sentiremo come e perché in Lazio, Calabria, Campania e Molise la storia è quella dei deficit sanitari. E poi le dichiarazioni di oggi di Tremonti, che parlando all'assemblea di Coldiretti, il ministro dell'economia, ha parlato di cialtroneria nell'uso dei fondi, ha detto fondi europei. se l'è presa con la cialtroneria, virgolettato, le responsabilità di chi al sud prende i soldi e non li spende, e quindi ha invitato a puntare il dito su governi nazionali di destra o sinistra, a puntare il dito sui governi nazionali e sull'Europa, ma soprattutto, quindi concludiamo noi, sui governi locali. E poi Tremonti, con la sua solita capacità anche di narrazione, possiamo dire così, è tornato a parlare di crisi dello stato dell'arte per quanto riguarda l'Italia, e con una metafora ha detto: la notte è passata, ma non del tutto. Sentiamo allora questo passaggio di Tremonti, che parla appunto della congiuntura economica. Tanto tempo fa, parlando della crisi, ho detto: è un po' come essere dentro un videogame. Arriva un mostro, lo batti, sei lì che ti rilassi, e arriva un altro mostro più grande del primo. Il videogame in un qualche modo continua, naturalmente in forme diverse, e noi speriamo in meno drammatiche di quelle che abbiamo visto finora, ma tutto continua e si sviluppa in una logica di relativa incertezza. Noi abbiamo, ai primi di maggio di quest'anno, in Europa, visto davanti una crisi gravissima. E non era la crisi della zona dell'euro, era la crisi stessa dell'Europa. E quanti abbiamo visto quella notte ministri guardare sulle banconote in euro e notare che per ogni paese la banconota in euro contiene una sigla specifica di quel paese, cosicché uno può tornare indietro pur restando con l'euro formale ma non sostanziale. Quella notte è passata e tante cose sono state fatte in positivo nella sicurezza. Abbiamo uno strumento che ci consente di difenderci meglio dalla speculazione esterna. Stiamo facendo una politica interna più organizzata e più seria di prima. Sta iniziando, c'è la possibilità che ricominci il processo politico dell'Europa. Certamente la crisi in un qualche modo ancora continua nell'alternativa tra la paura e la speranza. E questa era un po' una summa del pensiero tremontiano in questo momento. Gianni Trovati, collega del Sole 24 Ore, ci ha raggiunto. Buon pomeriggio, Gianni. Buon pomeriggio a voi. Chi ha letto il Sole 24 Ore oggi sa già forse di cosa vogliamo parlarvi, ma l'abbiamo annunciato. La notizia, tra l'altro, il Sole l'aveva già oggi, ma poi la conferma è di oggi, quindi in qualche modo abbiamo un'anticipazione sul Sole 24 Ore. Riguarda il fatto che scatteranno gli aumenti IRPEF e IRAP nelle regioni a rischio deficit sanitario. Allora Gianni, qua per spiegarci esattamente per filo e per segno cosa succede in Lazio, Molise, Campania e Calabria. Allora, in queste quattro regioni che hanno appunto un megabuco sanitario da coprire anche con le loro entrate fiscali, già da quest'anno aumentano ulteriormente le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, quella che pagano tutti i cittadini che risiedono nella regione interessata, e l'aliquota dell'IRAP, quella che pagano le imprese che stanno nella regione interessata. Questo è già un secondo aumento, perché queste quattro regioni avevano già IRAP e IRPEF ai livelli massimi di legge consentiti per un precedente aumento di un anno e mezzo fa, sempre per coprire il buco sanitario. Questo primo aumento più i piani di rientro che hanno provato a mercanteggiare con il governo non sono bastati. La minaccia era nell'aria da qualche settimana sul fatto che appunto si avvicinasse a un nuovo rincaro, che è puntualmente quanto improvvisamente arrivato ieri e che scatta da subito, per cui queste sono le prime quattro regioni che hanno le addizionali locali sopra i limiti massimi fissati dalla legge, perché appunto il rosso è troppo grande per essere coperto, diciamo, con strumenti ordinari. Tra poco facciamo anche qualche cifra, perché sono considerevoli le differenze. Tu Gianni, nel tuo articolo di oggi facevi il confronto tra Roma e Milano, è notevole insomma la spesa in più che dovranno affrontare i cittadini, ma soprattutto anche le imprese con un certo fatturato, perché un'aliquota piccola naturalmente si ripercuote e si amplifica su fatturati più ampi. Prima però però ci fermiamo un attimo per la viabilità e torniamo tra pochissimo per spiegare questi aumenti legati alla sanità in queste quattro regioni. Allora, riprendiamo a parlare con Gianni Trovati degli aumenti IRPEF e IRAP. Sono cose che per qualcuno potranno sembrare scontate, per altri forse un po' meno, e i meccanismi sono diversi perché i singoli cittadini ovviamente avranno a che fare. Parliamo di Lazio, Molise, Campania e Calabria, non tutti, per cui non vi preoccupate, quelli altri, quelli invece sì, avranno a che fare con l'IRPEF. Le imprese invece naturalmente con l'IRAP, meccanismi diversi, e ovviamente a seconda della base dell'imponibile, Gianni, gli effetti sono diversi. Le cifre che tu porti oggi sono notevoli, perché un'impresa con 2 milioni di fatturato, tra Milano e Roma per esempio facciamo il confronto, Milano aliquote invariate, si va a pagare quasi 20.000 euro di più. Sì, allora, diciamo in termini percentuali l'aumento più alto è sull'IRPEF, però le cifre sono più basse perché ovviamente un singolo cittadino, per quanto riguarda l'addizionale, come dire, paga cifre più basse, mentre sull'IRAP, che colpisce le imprese di tutte le dimensioni, dallo studio professionale che ha un paio di dipendenti, un'organizzazione stabile, fino alla Fiat, faccio per dire, le cifre in gioco sono molto molto molto più grandi. Questo per dare cifre diciamo assolute, per esempio circa il 3% dei contribuenti IRAP ha un valore della produzione, cioè una base imponibile netta superiore ai 250.000 euro, e quindi si vede imporre un aumento che cresce da 3.750 euro all'anno su fino anche a parecchie decine di migliaia di euro in più di quello che già pagava normalmente. E infatti è l'IRAP a dare il contributo, diciamo, più importante al tentativo di coprire i deficit sanitari di queste quattro regioni. Tentativo che sarà più facile nel Lazio, dove già il fisco è a livello record nazionale. I contribuenti del Lazio sono già prima, strangolati. Sono già prima di questo aumento alle prese con il fisco locale più arcigno, diciamo così. Però siccome è soprattutto il centro-sud colpito da questi problemi, territori con già un deficit molto forte di competitività, poche imprese, eccetera, eccetera, potrebbe questa cosa. In Calabria questo non basta. Ecco. Invece, siccome il tema del momento, anche perché il ministro Tremonti si appresta a presentarlo alle Camere, ma l'ha presentato al Consiglio dei Ministri 2 giorni fa, la relazione sul federalismo fiscale è per l'appunto il federalismo fiscale, mi viene da chiederti che impatto il federalismo fiscale avrà su questioni come queste, perché facendo un passo indietro sappiamo che questi deficit sanitari le regioni le hanno accumulate, qualcuno dice forse anche proprio perché col meccanismo dei trasferimenti prima si spendeva, tanto poi lo Stato ripianava. Adesso non è più così, non sarà più così proprio perché interverrà il federalismo fiscale. Al contrario però, Gianni, manovrare la leva del fisco locale non rischia di diventare, o potenzialmente potrebbe diventare, un modo per allargare i cordoni della spesa? In altre parole, ci sono altre regioni per esempio che rischiano già situazioni come queste? È una riflessione un po' ampia. Questo è un anticipo, è un antipasto della versione cattiva, diciamo, del federalismo fiscale, che avrà una versione buona nei territori ben governati e ricchi e avrà una versione più problematica, diciamo così, nei territori che sono stati mal governati, perché una volta a regime il federalismo fiscale dovrebbe funzionare su un principio di responsabilità in base al quale l'amministrazione locale deve farcela con determinati costi, e se non ce la fa deve aumentare appunto le aliquote del fisco locale per poter finanziare le spese troppo alte che questa amministrazione comporta. Questo nelle intenzioni della riforma dovrebbe introdurre un principio di responsabilità, perché il meccanismo è: io amministrazione spendo troppo, quindi ti alzo le tasse per finanziare le mie spese, quindi tu ti arrabbi e la volta dopo non mi voti più e di conseguenza voti un'amministrazione auspicabilmente migliore, diciamo. Questo è un meccanismo teorico che a livello appunto accademico funziona perfettamente. Sul piano pratico deve comunque introdurre questi principi di responsabilità, perché ovviamente per esempio in Calabria noi sappiamo c'è questo deficit che viaggia oltre i 2 miliardi di euro, quando erano andati a fare i primi conti non avevano nemmeno trovato le carte, quindi siamo proprio fuori dalla ogni grazia parametro di Dio. Esatto. Va bene, grazie. Allora Gianni, ne parleremo naturalmente perché insomma è una questione in divenire, però l'annuncio è questo: già dagli acconti di novembre l'IRAP in queste quattro regioni aumenterà causa i deficit sanitari. Adesso però parliamo di saldi. La crisi morde ancora. Giusto ieri il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli è tornato su questo argomento con delle previsioni di crescita dello 0,7% per quest'anno, e anche i consumi delle famiglie, ha detto Sangalli, nelle nostre previsioni rispecchiano un andamento simile a quello del prodotto interno lordo, quindi una crescita moderata se non modesta. Salutiamo Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. Buon pomeriggio. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera a questo punto, sì, possiamo dirlo. Allora, i saldi, eccoci qua, tutti aspettano i saldi, stanno iniziando in queste ore in Campania, a Napoli, domani dovrebbe essere, non so se sbaglio, la volta di Roma e Milano, anche poi tutte le altre regioni. Velocemente, perché non abbiamo moltissimo tempo, le due domande, che poi lei mi risponderà una per volta, sono: cosa vi aspettate voi dai saldi, naturalmente, quindi riprendendo anche un po' il discorso di Sangalli, invece cosa troveranno i consumatori, i saldi veri, iniziative e quant'altro? Iniziamo però dalla parte A: cosa vi aspettate voi, qual è la linea di galleggiamento dei consumi in questo momento in Italia? I saldi rimangono un momento importante sia per i commercianti che per i consumatori, che li gradiscono e li hanno sempre voluti. I saldi estivi valgono il 12% di tutta la spesa annuale dell'Italia in vestiario, abbigliamento e accessori. Le famiglie spenderanno circa 230 euro in abbigliamento sui saldi estivi e una cinquantina di euro, quindi 280 in totale, sulle calzature. Tuttavia, il totale mi ripete quant'è, così poi 280 euro a la famiglia. Media. Benissimo. Ecco, questo però purtroppo non sarà in grado di modificare il trend discendente della spesa di abbigliamento e calzature, un trend che purtroppo si è innestato in Italia già dalla metà, se non prima, degli anni 2000. E quindi, come dire, il saldo è un momento importante, gradito soprattutto dai consumatori, ma anche dai commercianti tutto sommato, ma non fa eccezione rispetto al... Cioè non sarà coi saldi che... Al trend che si fa ripartire l'economia. E invece per quanto riguarda i consumatori, perché insomma questa è una vecchia questione, una vecchia polemica, tutte le volte si riapre: saldi veri, saldi finti, merci messe lì per fare qualche margine, invece iniziative positive, cosa propongono i commercianti e i consumatori? Ci sono diverse iniziative, comunque le polemiche che si riaccendono ogni volta sono polemiche, giusto così per passare un po' il tempo, anche se noi vorremmo sottrarci, ma poi tutto sommato non possiamo farlo. I saldi sono ben regolati, sono un'opportunità aggiuntiva. E sì, sì, no, io lo dico perché non si sa mai, poi sono voci che girano, la gente si lamenta sempre, quindi è giusto chiarire. Sì, voci che girano purtroppo, piuttosto che di analisi, perché noi dobbiamo sempre ricordare che non esiste una legge che obblighi i consumatori ad acquistare o soprattutto acquistare in saldo. Se uno trova una buona occasione, e ripeto, le survey, cioè le indagini che facciamo presso i consumatori, ci dicono che comunque una grandissima maggioranza, 2 su 3, non solo aspettano i saldi, ma giudicano anche positiva la qualità. Ecco, se uno trova una buona occasione, utilizza i saldi, viceversa, certo, acquista normalmente. In ogni caso, se aggiungo fisco, ormai in Italia la libera competizione tra centinaia di migliaia di negozi di diversi formati e di diverse tipologie permette di fare iniziative promozionali e di marketing durante tutto l'anno. Chiaro, anche questo è un concetto su cui siamo tornati più volte. Io la ringrazio anche per la brevità, purtroppo, perché il tempo non era moltissimo. Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. Iniziano i saldi, abbiamo detto, e loro prevedono una spesa media di 280 euro, e quindi vedremo poi se queste medie saranno, come dire, rispettate oppure no. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno in redazione, Valeria Bernardi in regia. Focus Economia termina qua, appuntamento lunedì prossimo. Radio 24, la passione si sente.